Siamo il giorno e la notte, ma tu sai toccare i miei tasti, sai trovare le note, accarezzare le corde, e sembra che sia più forte di te. Ma riesci a farmi stare male tutte le volte. Cerco un senso ma non c'è, non c'è. Dove siamo rimasti? Tu che mi gridi addosso e chiami un taxi come due pazzi, Gravità, gravità zero, e il vento ci porta via. Bastasse una mia parola per sentirti meno sola. Ora che abbiamo tutto il cielo e possiamo volare via, bastasse una mia parola. Oh, oh, oh, oh. Vorrei solo un attimo per fermare la macchina. Tutto quello che immagino alla fine ci capita. Siamo sull'orlo del precipizio, fisso i tuoi occhi un abisso. Vorrei dirti tutto e sto zitto. Io non ti basto e tu non mi basti. Se togli il fuoco le stelle restano sassi. Sei quello che lasci, Gravità, gravità zero, e il vento ci porta via. Bastasse una mia parola per sentirti meno sola. Ora che abbiamo tutto il cielo e possiamo volare via, bastasse una mia parola. E se dovrò cadere una di queste sere, ti va di farlo insieme, insieme. Poco che resta di noi. Gravità, gravità zero, e il vento ci porta via. Bastasse una mia parola per sentirti meno sola. Ora che abbiamo tutto il cielo e possiamo volare via, bastasse una mia parola.